Allora, io e lei siamo a stronza e siamo qui per raccontare quello che ci dice il cielo. Ma perché fate sta cosa? Perché in realtà l'essere umano, osservando il cielo, ha imparato a fare tutto, ok? Prima di tutto ad orientarsi, poi a navigare e poi a coltivare, capite? Che insomma è una cosa abbastanza importante. Purtroppo stiamo perdendo questo tipo di conoscenze. Sono molto contenta dell'invito che mi è stato fatto da Strategie Prenestine, perché comunque ultimamente sto ripulendo quei vecchi scatole di quei tutti i traslochi maledetti che uno ha dovuto fare nella vita, e non faccio altro che trovare dei miei iscritti. Quindi ho avuto sempre la fissa di scrivere, di leggere da quando sono giovane, e sono tutti scritti a penna, in fogli riciclati, cose del genere. Quindi diciamo che sono estremamente felice, perché mi rendo conto proprio di quanto la parola e la scrittura nella mia vita è stata sempre importante. E questa cosa la vado a vedere proprio nel tema natale, come diceva Carlotta. Ci sono quelle cose che vanno a descrivere chi ha il talento per la scrittura, la passione, e diciamo che nel tema natale ci sono scritte, perché solitamente sappiamo quello che è il segno zodiacale. Il segno zodiacale è rappresenta il sole, la nostra missione della vita. Ma in realtà noi nel tema natale abbiamo tutti i pianeti, ok? Quindi io posso essere di un segno e posso avere altri pianeti in altri segni. Allora, che cosa ci indica la scrittura? Sicuramente Mercurio. Mercurio è il pianeta della comunicazione, ok? E c'è anche la terza casa che parla di queste cose, ma anche un aspetto di Mercurio con Nettuno ci dice che magari c'è la capacità di scrivere dei libri e avere questo accesso alla fantasia. Oggi avevamo proprio la luna in pesci, e i pesci per esempio è quel segno che vive proprio nell'immaginazione più pura, perché è proprio il segno prima della nascita. Quindi i pesci sono proprio artisti per antonomasia, perché sennò sono dei scoppiati di testa, ok? Quindi io consiglio proprio in assoluto ai pesci comunque di mettere sempre quell'ambito artistico nella vita, perché di sottofondo c'è e bisogna utilizzare questa immaginazione. Allora adesso faremo un pochino quella che è la descrizione del cielo, considerando che noi tutti questi pianeti ce l'abbiamo, come dicevo, anche dentro. E quando faccio la descrizione del cielo, e magari si va a leggere, no? Che cosa sta succedendo nel cielo? Ve lo dirò, perché ci stiamo preparando veramente a delle cose abbastanza particolari. È come leggere un tema natale, ok? Quindi vediamo che il sole in questi giorni si trova nel segno dell'Ariete. Quindi auguri a tutte le persone dell'Ariete che stanno compiendo questo capodanno personale. Quando il sole torna sul nostro sole, cominciamo un nuovo ciclo, un giorno o un anno. Quindi non state a casa depressi, non fa niente, tanto non me va bene nessuno, perché i giorni prima del compleanno si è sempre depressi, ok? Proprio perché si vanno ad analizzare certe cose. Fra pochi giorni, questo, allora, l'Ariete, il sole in Ariete. Il sole all'Ariete per l'astrologia è l'inizio, quindi abbiamo visto in natura, perché dobbiamo osservare, abbiamo detto, no? In natura queste piante che escono, quindi anche se fa freddo, noi l'abbiamo visti questi fiori spuntare sia sugli alberi che sui prati. Quindi indipendentemente dalle temperature, fa freddo, sembra novembre, sempre all'inizio e all'Ariete stiamo, quindi questa natura che è scoppiata. E ricordiamoci pure che l'Ariete è governato da Marte, una natura che scoppia, una lotta per la vita. Quindi quando siamo col sole in Ariete è tutta una lotta. Non vi pensate che stiamo tranquilli e rilassati? Ve ne siete accorti che è stato un mese intenso, no? Ecco, fra qualche giorno questo sole si sposterà nel segno del Toro, quindi dalla lotta e quindi dalla nascita e devo sopravvivere a questa nascita, passiamo al segno del Toro, che invece è il radicamento. Quindi se osserviamo nella natura, l'erbetta sarà più alta. Vedete che fra 5 giorni, soprattutto dopo queste piogge, se prima vedevamo soprattutto chi c'ha la campagna, l'erbetta è così e poi dopo è così, no? Ok, cresce proprio perché la natura si fa bella per poi essere impollinata, io questo è importante. Quindi tutti quanti noi cercheremo delle sicurezze e ci renderemo saremo più belli e cominceremo, diciamo, anche un po' a spogliarci, a farci vedere, a metterci a dieta. Pure se il toro e la dieta sono due cose completamente opposte, perché come diceva Carlotta, al toro comunque gli piace mangiare. Ma perché dimostra cosa, no? Perché, diciamo, il toro è governato da Venere, e Venere è proprio quel pianeta che ci indica il piacere. Quindi il toro, quello che cerca nella vita, è il soddisfacimento del proprio piacere, ok? Quindi massaggi, cibo, coccole e sicuramente non fatica. Ora, c'è Mercurio che si trova nel pianeta della comunicazione. Scusate, stavo pensando se dirvi subito il fatto che c'è la luna nuova, invece me lo attacco dopo, ok? Allora, quindi suona primo pianeta che sta al centro, il sole, poi quello più vicino, Mercurio, penso che lo sapete tutti, no? Che dopo il sole c'è Mercurio, perché dopo mi dovete dire che dopo Mercurio cosa c'è. Mercurio è il pianeta della comunicazione, l'abbiamo detto prima, è tutto ciò che ci permette di avere lo scambio con le altre persone. In questo momento Mercurio si trova in toro e la comunicazione con Mercurio in toro è, c'ho ragione io, l'altro no, ok, è un po' decoccio sotto questo punto di vista, però il discorso è che il toro fa le cose se conviene farle, se deve sprecare tempo e fatica è inutile, ok? Quindi questo Mercurio in toro ci rende molto pratici e soprattutto facciamo delle cose perché effettivamente ci conviene farlo. Siamo tutti a farsi i conti, stiamo a vedere tutta una serie di cose, soltanto che il 21 Mercurio diventa retrogrado. Allora, Mercurio fa sempre le fasi di retrogradazione, tutti gli anni, per 3 volte, a volte 4. Insomma, ci sono sempre gli eventi straordinari, però Mercurio si ferma in dei segni. Fino allo scorso anno si fermava sempre nei segni d'aria, ok? Invece in questi ultimi anni c'è stato questo cambiamento, sarà sempre nei segni di terra. Quindi toro, vergine e capricorno, attenzione, perché ci tocca lavorare più del solito, ok? Vabbè, non ci piace sostanzialmente, però diciamo che c'è questo pianeta che ci aiuta. Quindi dal 21 di aprile al 15 maggio, quando Mercurio è retrogrado, non faccio delle cose per spingere ad andare avanti, perché con Mercurio retrogrado stiamo indietro, ok? Ci si ferma un attimo per rivedere tutto quello che è stato fatto. Quindi mi raccomando, non comprate va a casa però Mercurio retrogrado, perché dovete riguardare le pratiche. Ma soprattutto, ma al di là di quello, la cosa più importante è di non avviare una nuova attività con Mercurio retrogrado, perché se io sto facendo una cosa che deve essere nuova, non la faccio andando indietro. Se invece devo andare con qualcuno, gli devo andare a battere i soldi, per esempio, lo faccio con Mercurio retrogrado. Ti ricordi che c'è il buffo? È il momento che saldiamo il buffo. Ti ricordi che dobbiamo discutere di questa cosa? Sistemiamo questa cosa. Ci sono, capito, quelle cose che abbiamo lasciato lì sulla scrivania che non volevamo vedere, che invece hanno bisogno di essere riviste e sistemate, ok? Quindi siccome il 21 aprile e il 15 maggio abbiamo tutta una serie di ponti, mi raccomando, prima di andare all'aeroporto o in stazione, controllate le mail se succede qualcosa, perché è facile che con Mercurio retrogrado vi spostano, annullano, ok, proprio i viaggi. Ci può essere un ritardo di comunicazione, oppure tu volevi mandare una mail a una persona e poi l'hai mandata a tutt'altre. Quindi attenzione, perché possono esserci una serie di disagi, dei computer che si rompono, anche le macchine, una serie di disagi che comunque servono a dirci che, perché noi i pianeti stanno lì a punirci, servono a dire che ci dobbiamo fermare un attimo e vedere tutto quello che abbiamo fatto precedentemente. Considerate che questo sole che vi ho detto che è in Ariete è in congiunzione a Giove, che è il pianeta dell'espansione, quindi tutti quanti noi in questo periodo abbiamo avviato tutta una serie di cose molto interessanti, ci siamo buttati a capofitto in nuove situazioni. Bello, stiamo andando avanti, però ci sarà il momento in cui quello che abbiamo mandato avanti va rivisto. Non dobbiamo fare i bambini che ci offendiamo, ma hanno rimandato indietro al lavoro e quindi la prendiamo sul personale e pensiamo che noi non valiamo niente. No, quel progetto va semplicemente rivisto, lo possiamo sistemare in modo che sarà meglio, ok? Questo è molto importante da sapere. Poi abbiamo Venere, che è il pianeta invece che parla delle relazioni, che in questo momento si trova in Gemelli, e quindi questo vuol dire che tutti quanti noi abbiamo voglia di uscire e di chiacchierare e di trovarci con le altre persone. Infatti effettivamente siamo dati. Anna venire sbarazzina, che non è che se vuole tanto impegnare, sa chiacchiera, quindi attenzione, perché tutti quanti noi andremo, diremo delle cose, poi sostanzialmente ci dimenticheremo di quello che magari, no, di quello, attenzione a non prendere troppo sul serio questa venere gemelli, è buona proprio per socializzare. Allora, poi abbiamo invece Marte, che è il pianeta dell'energia fisica. E quindi quando Marte diciamo è in aspetto disarmonico, vuol dire che noi non abbiamo le forze necessarie, oppure ci abbiamo un sacco di rabbia e siamo frustrati. È importante sapere dove è Marte. In questo momento Marte si trova in Cancro, che non sa per niente a casa sua, ok? Nel senso che Marte è io che bello, mi alzo e vado a conquistare, no? E faccio queste cose. In Cancro non c'è tutta questa voglia di fare, Cancro non si muoverebbe proprio, non si alzerebbe dal divano. E soprattutto un Marte in Cancro è sensibile e permaloso, quindi vediamo che noi stiamo litigando perché magari ci siamo detti delle cose e siamo stati toccati sull'emotivo. Quindi attenzione, che magari l'ego comunque in qualche modo si fa sentire. Ora siamo in giorni importanti perché oggi è la luna in Pesci e poi ci sarà la luna in Ariete. Stiamo andando verso quello che è la luna nuova. La luna nuova è sempre un nuovo inizio, quindi attenzione, stiamo mettendo un seme per lanciare nuove cose. Lo facciamo tutti i mesi. Ora il discorso è che questa luna nuova, che sarà sempre il 20 di aprile, sarà alle 6 di mattina e sarà di nuovo in Ariete, ok? Quindi abbiamo avuto due lune nuove in Ariete. È una cosa particolare, non succede sempre, è una cosa abbastanza straordinaria, ogni tanto capita. Quindi avremo due inizi, avremo un nuovo inizio. Però questa luna nuova infatti sarà ai 29 gradi, quindi che succede? Luna nuova, il sole passa in Toro, ok? Luna nuova in Ariete, è un po' particolare questa luna nuova perché ci sarà un'eclissi solare. L'eclissi solare però per fortuna è ibrida e piccoletta, quindi riguarderà principalmente quello che è l'Indonesia e l'Australia. Non ci toccherà troppo, ma non possiamo fare finta di non sapere che c'è un sole oscurato, ok? Quindi vediamo che questa luna nuova oscura questa energia e questo sole sarà in quadratura Plutone. Uno dei più grandi passaggi che è successo in questo anno del 2023 è proprio il passaggio di Plutone in Acquario, che ci sta portando verso la rivoluzione. L'abbiamo visto, oltre alla rivoluzione prima ci porterà verso quasi una guerra. Diciamo che la situazione è abbastanza movimentata. Non posso dire che è una luna nuova proprio propizia, perché vedo un sole oscurato che sta in quadratura a Plutone, quindi a livello collettivo la vedo un po' complicata come rapporti, ok? Quindi ci sono dinamiche di potere, però quello che succede nel cielo collettivo succede anche nelle nostre vite. Quindi se noi vediamo che sta succedendo una guerra fuori, perché poi mandano le foto che dal treno passano questi treni con i carri armati, le navi che si stanno schierando, e tutto questo sta succedendo in Italia comunque, no? Anche se magari dall'informazione non si vede, diciamo che sono dei giorni in cui la situazione è un pochino tesa. Però tutta sta roba di tensione dobbiamo ricordarci che riguarda un pochino le nostre vite. Diciamo che Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno sono quelli toccati da questa luna nuova che si ripete, ok? Ma subito dopo passiamo a questa energia in Toro. Quindi Leone, Scorpione e Acquario, attenzione anche il Toro, perché stiamo andando verso energie un pochino tostarelle. Poi andiamo nello specifico, ma non è che Gemelli, Vergine e Pesci stanno belli tranquilli e guardano altri segni, no? Ah, mo ve beccate queste, no! Diciamo che questi ultimi segni invece siamo quelli coinvolti da Saturno, quindi dice vabbè, finalmente gli tocca a qualcun altro. Allora, un transito di Saturno, diciamo che all'incirca tocca 6 mesi, ok? Dura 3 anni Saturno in un segno, per 6 mesi ci devasta, ok? Per rimetterci a posto, però non lo fa sempre per punirci. Saturno dice hai sbagliato strada, ti faccio vedere che hai sbagliato strada, e quindi la paghi, nel senso, te ne devi rendere conto. Se invece siamo sulla strada giusta, Saturno ci premia, ci promuove, e poi ci tocca lavorare di più. Ti invitano a uscire e non puoi uscire. Allora io non ho pensato minimamente, ma non lo penso mai, con quale segno cominciare, quindi aiutatemi, con quale segno comincio? Cancro, esci! Perfetto. Lei mi ha detto, tanto mi metti in mezzo, si è messa in mezzo da sola, ok? Allora infatti il cancro è un segno protagonista, ok? Andiamo a vedere, è un segno che fa un po' finta, no? Deve essere umile, questo lo dico sempre, però no, sono dei falsi modesti, proprio, no? Giusto, sei del cancro, dice. Ah. Soprattutto, vabbè, sono un po' permalosi e si offendono, però quando riconosci invece questa parte non ci rimangono male, perché già vedi che qualcuno l'ha capito, che effettivamente ci abbiamo delle qualità. E perché questa cosa? Perché il cancro comunque è governato dalla luna, e quindi la luna è questo pianeta che, se voi avete visto l'altro giorno la luna nuova, la luna piena, insomma, no scusa, la luna piena, il sole che sorge, la luna che tramonta, comunque se voi guardate il cielo sembra che il sole e la luna hanno la stessa grandezza, è un'illusione ottima, non è così, no? La luna è piccola e il sole è più grande. Invece noi visivamente li vediamo uguali, perché l'astrologia è una visione geocentrica della vita, e quindi il sole e la luna sono due luminari, quindi sappiamo benissimo il leone quanto è coatto e quanto è figo, ce lo fa vedere tutti i giorni, ok? Per quanto riguarda il cancro, fa finta di non farcelo vedere, quindi praticamente vanno in giro con i catari frangenti, ok? Oggi mi sento cancro, dico collane tipo queste, no? Perché io non mi devo far vedere, cioè io mi devo far vedere, però mi devono vedere gli altri, come fa la luna, ok? Quindi è proprio la simbologia, è la stessa, è un segno effettivamente governato dall'acqua, quindi ha una grandissima sensibilità. Allora, cosa sta succedendo a questo cancro in questo momento? Allora, i pianeti in Ariete se ne stanno andando, quindi gioiamo di questa cosa, perché per il cancro quando c'è il cambio di primavera, ma questo succede all'Ariete, cancro, bilancia e capricorno, quando c'è il cambio di stagione, ma non può fare di testa, confermate che vi sentite molto, no, è il momento in cui non vi sentite proprio in sintonia, ok? Proprio c'è un momento di sbandamento. Ora questi pianeti se ne stanno andando, vi devo dire che anche Giove fra un pochino a maggio si sposterà in Toro, e questo sarà un grande cambiamento, quindi ancora da resistere poco, però il cancro già a Marte, dopo che gli è stato 8 mesi alle spalle, 6-8 mesi, non mi ricordo precisamente. Comunque, il fatto è che il cancro per un periodo, per anni, è stato un po' oscurato. Esatto. Allora, diciamo che prima ha avuto le batoste dai pianeti, soprattutto da Saturno in opposizione, poi diciamo non ci sono stati pianeti a favore, e finalmente la situazione si sta cominciando a muovere, quindi vediamo il cancro risalire la china e arrivare piano piano a delle grandi soddisfazioni. Quindi prima di tutto Marte in congiunzione, finalmente utilizzo la mia volontà, è ritornata la forza al cancro di portare avanti i propri progetti e non quelli degli altri. Una voglia di uscire di casa, no? Di alzarsi dal divano, prima si stava più tranquilli, adesso vedremo dei cancro che avranno più voglia di uscire, quindi, e soprattutto hanno questa grande verve. Vi rispondono, se tante volte, perché soprattutto sono permalosi, se viene male, attenzione perché vi insultano, ok? In questo è il periodo in cui vi beccate abbastanza, cioè diciamo che c'è questa voglia di affermare la propria personalità. Diciamo questi pianeti in Toro comunque aiutano il cancro a socializzare con altre persone, quindi il campo dell'amicizia, il campo del sociale, il campo della politica è il momento, è il, diciamo, il settore che più interessa il cancro in questo periodo, che gode finalmente del sostegno di Saturno. Ora il 5, aspettate, mi sono dimenticata, perché il 7 di maggio Venere entrerà nel vostro segno, quindi ci sono tante cose interessanti, però diciamo che per quanto riguarda le relazioni, e non parlo solo delle relazioni di coppia, allora se ci sono i cancro liberi con qualche relazione in questo momento, la relazione è nascosta, non viene alla luce. Se ci sono dei cancro in coppia, in questo momento la relazione è più importante, magari il partner, e il cancro gli può dare una mano. Se vi serve una mano, spesso il cancro ve la dà, se vi siete comportati bene, perché sennò non vi saluta nemmeno, ok? Quindi si sta movimentando tutto quanto e fra un pochino la situazione diventa ancora più interessante, perché arriva Venere, e quando arriva Venere comunque ci si accende di luce, e soprattutto è il momento buono per i morchià, ok? Perché uno dice vabbè, ma l'amore non serve solo a questo l'astrologia. Comunque cancro, grande 10 maggio 7 maggio 7 maggio 7 maggio Venere in cancro, ok? Vediamo delle informazioni certe, perché poi mi scrivono anche una cerca sotto casa. Allora, quindi state andando tra i segni più fortunati del momento, perché poi a maggio questo Giove se ne va, quindi attenzione a non investire tutto, perché la seconda parte dell'anno invece con questo Giove la situazione diventa promettente sotto tutti i punti di vista. E che segno facciamo? Capricorno. Capricorno mi è arrivato. Dov'è Capricorno? Che? Eccoli. Allora, cancro governato dalla luna, è Capricorno, è il segno opposto al cancro, quindi è bellissimo, perché andiamo a vedere queste similitudini. Allora, nel cancro vediamo un'ipersensibilità che viene tirata fuori. Nel capricorno c'è questa sensibilità, perché molto spesso il capricorno viene visto come una persona senza cuore. Non è vero, assolutamente, non ve lo fa vedere però, perché il capricorno si vive invece la pesantezza di Saturno, ok? Quindi voglio dire, non è che è facile vivere la luna, perché viversi la luna vuol dire ogni 2 ore e mezza ne cambia l'umore, ok? Quindi tu incontri nell'arco della giornata, loro hanno fatto 4 stagioni, 4 personalità diverse. Capricorno invece è monolitico, non vi fa vedere niente. Governato da Saturno, che è il pianeta proprio della responsabilità, perché Capricorno quello che deve fare, allora, mentre proprio nel cancro abbiamo l'accudimento e la protezione, invece abbiamo l'autonomia nel Capricorno. Il Capricorno nasce proprio per imparare a camminare sulle sue gambe. Nella simbologia le gambe non ce l'ha, c'ha ste gambe da pesce e c'ha sto caprone che arrampica la montagna. Perché? Perché il Capricorno deve lasciare quelli che sono stati gli insegnamenti della famiglia, che lasciamo perdere quello che vanno insegnato, perché vi hanno responsabilizzato sostanzialmente, e diciamo che c'è tutta la prima parte della vita che è un po' complessa. Perché? Perché la seconda parte è più bella, quindi non vi preoccupate Capricorno, perché se la prima parte è stata faticosa, la seconda è molto più leggera, perché avete imparato tante cose nella vita. Quindi il Capricorno da piccoletto gli hanno accollato delle cose che loro hanno portato avanti senza sapere nemmeno quello che era, e hanno imparato a fare tantissime cose. Questa cosa succede proprio per diventare autonomi e gestirsi la propria vita. Ora, diciamo che il Capricorno è un segno che può stare da solo, che sta benissimo da solo come segno, ma sta benissimo anche in coppia. Se vi devo dire una delle coppie più durature che esistono proprio nello zodiaco, vi mettete con Capricorno prima che ve lascia, dovete fargli proprio le peggio cose, ok? Poi dopo vi fate le peggio cose. Dopo che vanno i peggio cose, rimangono fregati e chiudono il cuore. Allora, dopo che hanno preso la sola, dicono vabbè, allora è meglio che sto da sola. È vero! Perché sei del Capricorno? Allora, ovviamente io sto parlando di segni in generale, non prendiamola sul personale, ognuno di noi ha tutti questi pianeti, quindi siamo tutti diversi, ok? Quindi tu vai a essere un Capricorno con un sacco di cose in acquario. Però dice non t'ha voluto il Capricorno. Vabbè, quello è un altro problema. Vabbè. Non gli ha dato quasi pure. Che segno lascia perdere, non ti preoccupare. Che segno sei? Toro. È del toro. E quindi si voleva. Però è una bella coppia. Ah, ecco, quello è il problema. No, forse sono che perché ti chiami a stronza? Me l'hanno dato questo nome, me lo merito tutto. Ok, quindi proprio il mio, questo è il mio modo di parlare, tesoro, d'oro ascendente scorpione, devi liberarti da quello che è il possesso e il controllo, è tutto a posto. Gli abiti di psicologi, qui abbiamo carne per voi, ce l'abbiamo per tutti, non lo so. Io sono la prima psicopatica che vado in giro con una pupazza, vi rendete conto che vado in giro con una pupazza e pensate che sono sana, siete folli voi. Insomma, dai, allora dentro di noi abbiamo un sacco di personalità e queste personalità sono sti pianeti che stanno dentro, quindi c'è una parte di noi che è un modo e altre parti che sono un'altra, noi dobbiamo metterci d'accordo e per questo è importante sapere, no, come diceva Carlotta, c'ho la luna in toro e poi è del capricorno, meno male che sulle luna vanno d'accordo, quindi i genitori andavano d'accordo quando lei è nata, ok? E lei riesce a viversi lo stato emotivo con quello razionale bene, io invece no. No, vedi che l'ho proiettato verso una pupazza. Comunque, dicevamo che era il suo capricorno. Suo capricorno che ha fatto? In realtà il capricorno non sta una favola, nel senso che negli ultimi anni sta una favola, sì, c'è il mal di schiena, ha faticato, sa fa un sacco di cose, però non possiamo dire che la situazione è veramente difficile. Diciamo che è che innanzitutto ogni tanto potete pure togliere sto zaino dalle spalle, non è proprio il momento giusto per toglierselo questo zaino dalle spalle perché c'è questo Mercurio che vi aiuta tantissimo nei vostri progetti che state portando avanti da anni e proprio questi progetti che state portando avanti stanno comunque crescendo, ancora un momento di grandissima fortuna, quindi continuare a lavorare, sicuramente con Mercurio retrogrado alcune cose vanno riviste, ma è un Mercurio sempre favorevole, arriverà anche questo Sole, però ecco Capricorno, attenzione perché questa luna nuova in questo momento, ma anche per il Cancro, ci saranno dei giorni, quindi 20 e 21, vedremo che la situazione non è proprio al massimo, ok? Quindi ci saranno dei giorni che insomma un po' così e poi la situazione si sistema, quindi invito a non andare nel panico perché ci potrebbe essere un po' di rabbia, questo volevo dire, no? Che il Capricorno soprattutto può essere colpito sulla sensibilità, quindi nei prossimi giorni, non oggi, dopo domani, ci possono essere delle situazioni che pizzicano, occhio a non perdere la pazienza e il controllo, ok? Quindi ci sono dei momenti che sono difficili ma vengono comunque superati, perché il discorso è, caro Capricorno, siccome state facendo talmente tante cose, quello che vi manca in questo momento è l'energia fisica, perché avete un Marte in opposizione. Quindi Capricorno è sensibile ma non lo fa vedere, sembra proprio marmoreo, no? Invece in questo momento è suscettibile e stanco, voi andate a dire cose, nei prossimi giorni potrebbe sbroccare. Quindi attenzione, non gli dite niente, oppure vi prendete lo sbrocco. Non succede, non gli scrive in questi giorni. Io grazie. Okay. Non gli scrive proprio più. Dopo me lo dici, sicuramente l'avevo capito che c'hai un problema. Ce lo diciamo dopo, in privata, sta qui. Quello stessa cazzo dopo. Queste cose non si dicono. Abbiamo sbagliato a priori, sì. Gli ho trovata io, capito? Hai capito? Come i famosi proverbi, no? In ufficio, nel palazzo, niente. Non si può dire. Però la vena sapete, lo conoscete, no? No, non la posso dire perché poi lo devo pubblicare, poi dicono che dico. In ufficio, nel palazzo, niente figa, se può dire, e niente? Come? Oh, questo, attenzione ai proverbi, aprile, non ti scoprire, cioè, mo, voglio dire, è importante, diciamo, rispolverare le antiche cose del passato, quindi Capricorno, siete stanchi, non vi sobbarcate di troppe altre cose, perché sennò sbroccate le persone. È un periodo molto interessante a livello lavorativo, in questo momento la Venere non vi sta dando la giusta soddisfazione, perché abbiamo detto, allora, o c'è il Capricorno che in questo momento se vuole divertire perché è un'altra persona non gli va bene, oppure non è il momento proprio di legarsi, ok, sostanzialmente, diciamo che il Capricorno in questo momento è più preso dalle dal lavoro e dalle cose pratiche, perché diciamo che il Capricorno in questo periodo ha deciso che si deve comprare il mondo intero, ok? Da maggio la situazione diventa proprio, allora diciamo che la situazione è già promettente, siccome c'è già un grande movimento di soldi e soddisfazioni lavorative per la maggior parte. Vedo che ci possono essere per il Capricorno, perché ogni volta se va a comprare qualcosa, cioè il Capricorno va a lavorare per spendere i soldi, ok? Lo fa, esatto, no, ma proprio lo fa apposta, perché? Dice, allora io lavoro, sono stanco, devo averci il divano bello, ok? Grosso soprattutto, ok? Con tanto di telecomando. Allora, vediamo che la situazione è buona, però per comprarvi delle cose più grandi io vi invito a farlo dalla seconda parte di maggio, ok? Quindi diciamo per i grandi affari dalla seconda parte di maggio, adesso già va bene, diciamo che dal 15 maggio in poi si firma il contrattone, perché vi stanno a cercare tutti in questo momento, vi stanno facendo grandi proposte, ma perché vi siete dati da fa? Fate solo quello, fate, non è vero. Comunque l'amore ne parliamo a agosto. Momento di amore. Ora diciamo che la stabilità c'è, però la Venere in questo momento non vi sta riguardando più di tanto. Fate va via. Bene, che se ne facciamo? Vergine, va bene? Vai, così abbiamo fatto tutti i segni di terra. Allora, ho fatto il cancro, non ho fatto il toro, giusto? Però sei tu che mi hai distratto! Allora, non ho fatto il toro, ho fatto il cancro! Vabbè, raga, ancora manco ho bevuto troppo, capito? Però c'è la ragazza qua che mi confonde, con questo coso ascendente scorpione, capito? Chissà che me sta a dire in realtà. Allora, facciamo il segno della Vergine. Allora, il segno della Vergine, che sono anche io, eh? Allora è quel segno che comunque è governato da Mercurio e da un pianeta che prima nemmeno era stato scoperto. Adesso noi sappiamo, è vero. Diciamo che per la lista, cioè allora di solito Cancro e Leone hanno soltanto un pianeta che li governa, tutti gli altri segni hanno due pianeti. A un certo punto però la Vergine non c'ha il suo secondo pianeta, poi la Lisa Morpurgo l'ha chiamato X, ok? Pianeta X, ovviamente va la Vergine, giusto? In realtà abbiamo Sedna, che riguarda proprio quella che è la natura, poi ne parleremo perché sono i pianeti oltre Plutone, però Vergine abbiamo un sacco di nuove informazioni per noi che non veniamo proprio capiti sostanzialmente. Allora, diciamo che la Vergine prima di tutto è un segno mobile, non è la bilancia un segno mobile, non lo è manco per niente mobile, è cardinale, psicopatica come la Ariete, il Cancro e il Capricorno, ok? È così, ognuno ha il suo. La Vergine è un segno mobile, quindi non, e quindi siamo doppie, attenzione, quindi quando vedete la Vergine, vedete che la Vergine è una modalità distaccata, stronza, pignola. Se voi vi fermate all'apparenza non vedrete mai chi c'è dietro il segno della Vergine, che invece è uno dei segni che in assoluto è pure troppo empatico confronto all'altro. Quando vi trovate un muro della Vergine, o perché ha preso già troppi soldi e gli hanno scroccato troppo, ok, oppure proprio non gli piacete. Succede anche questo, non dobbiamo piacerci tutti quanti. Diciamo che nella Vergine c'è un'onestà nel dire le cose, un modo abbastanza diretto, governato da Mercurio. Non ce la possiamo fare, soprattutto uno dice, beh, pure se è stupido, no, ecco, la Vergine con la stupidità non gliela fa. Cioè, possono essere tanti difetti, ma la Vergine c'ha bisogno di comunicare con persone che hanno un certo tipo di intelligenza, ma che sono soprattutto sono sincere. Basta dire una cavolata, la Vergine, che vi siete fottuti, perché non vi prenderemo più sul serio. Ok? Perché noi ci teniamo tanto, ci tagliamo le braccia per quello che abbiamo detto, e quindi un pochetto ce l'aspettiamo andato. Scusa, ho visto, sei un po' infastidita. Fabiana, stai esagerando, ha detto. Allora, sta Vergine, cominciamo dal fatto che abbiamo Saturno in opposizione, partiamo dal momento, dalla parte più brutta, no? Allora, diciamo che Saturno è il pianeta della responsabilità e l'opposizione di Saturno, diciamo, porta la Vergine a capire se la strada che ha intrapreso è quella giusta, Ok, e quindi da lì, se la strada è giusta, si sale di livello e abbiamo detto se esce di meno e se divertimo di meno. Ok, ma tanta vergine è abituata, no? A tassi da fa. Quindi non è proprio un problema. Ora, se invece non è la strada giusta, ci possiamo rendere conto, quindi su alcune cose magari la strada è giusta, vediamo che il lavoro è giusto e la relazione no, oppure vediamo che quella relazione invece è fantastica ma il lavoro non ci piace. Vedremo che ci sono dei momenti in cui noi arriveremo al culmine di alcune situazioni e capiremo se la strada è da mantenere o se c'è bisogno di nuovo di ricominciare. Non ci spaventa per niente. Diciamo, quello che spaventa la Vergine in realtà è la confusione e soprattutto quell'ambiguità. Se te mi dici una cosa e ne fai un'altra, io non ci capisco più niente, mi sta dando dei messaggi che non vanno bene. Quindi diciamo che negli ultimi 10-12 anni la Vergine si è fatta andare bene qualsiasi cosa, ok? Dicendo vabbè, lo capisco, sempre questa empatia, magari. Adesso si è stufata la Vergine. Quindi con questo Saturno in Pesci, mi dispiace, ma magari tanti rapporti possono essere chiusi proprio perché non portano da nessuna parte. Quindi diciamo c'è un taglio con alcune persone, però c'è anche, diciamo, la possibilità di avvicinarsi a delle nuove persone. In questo momento sicuramente non è proprio il momento di rimorchiare, c'è Venere in Gemelli, quindi è un aspetto di quadratura. Io ho provato almeno 10 vestiti prima di venire qua, sono tutti spazi. Poi l'amica mia da Reggio mi ha messo a posto, no, manco per niente, l'ho lasciato tutti spazi, perché non è vero che siamo ordinate, siamo totalmente caotiche, cioè con una, cioè voi dovete l'ordine e la precisione, è perché noi viviamo in un caos più totale, ok? Quindi è per questo che noi abbiamo bisogno di quei paletti, perché sennò ciaone, ok? Allora, è il momento però di lavorare, nel senso che c'è Mercurio in Toro che ci sta aiutando a, diciamo, a avviare nuove comunicazioni, nuovi contratti, conosciamo nuove persone. E diciamo la situazione è promettente, quindi vediamo che comunque questo mese, anche con il Sole in Toro, per la Vergine la situazione è interessante. Sicuramente è un momento di verifica. Abbiamo detto per l'amore aspettiamo sempre agosto, ok? No, non è vero, perché in realtà basta aspettare questa Venere in Vergine, però ci sono delle cose che vanno sistemate. Adesso c'è l'energia giusta. La Vergine, diciamo che è messa sotto d'occhio dei pianeti da un po' di tempo, perché c'è avuto un Marte in quadratura, quindi ci sono stati degli ostacoli con delle altre persone, che magari in questo momento, con questa luna nuova e questo Mercurio retrogrado, fortuna, magari riusciamo finalmente a sistemare queste vecchie questioni con le persone o a chiuderli questi rapporti. Questo ce ne renderemo conto proprio nei prossimi tempi, perché non ci possiamo trascinare le cose, ok? Noi non ci piace trascinarsi, non siamo come il Cancro e magari lo Scorpione che stanno lì a cercare di continuare. Noi o sistemiamo subito o ciao, no, il tempo non lo vogliamo perdere. E quindi vabbè, non siamo tra i segni più fortunati dell'anno, però secondo me ce la faremo, proprio perché abbiamo questo Saturno che però ci aiuta a mettere fine a quel caos che abbiamo attorno, quindi niente di male. Che segno facciamo? Gemelli, mi è arrivato, Gemelli. Gemelli. Allora, Gemelli è un segno governato da Mercurio come la Vergine, quindi abbiamo questa simbologia, però la Vergine sta lì a analizzare qualsiasi cosa, il micro, no, proprio sta lì, ma guarda al dettaglio, capito? Guarda una cosa, là c'è il buco, capito? Oggi pensavo a mettere un altro vestito, all'ultimo ho visto che c'era la macchietta qua, poi ho pensato la posso coprire, poi ho detto no, posso, metto la macchietta, ah, è la malattia della Vergine, la macchietta. Allora i Gemelli invece non gli sarebbe fregato niente di quella macchia, capito? Cioè non c'era nessun problema, ne avrebbe fatto un altro dall'altra parte semmai. Allora, il segno che mette in comunicazione il mondo, se vediamo che nel Toro abbiamo questa erbetta che cresce per farsi bella, è Gemelli che impollina, ok? È lo scambio, vado di qua, a destra manca. E in questo momento c'è la Venere che sta in congiunzione ai Gemelli, Gemelli indossato, perché questo è il momento giusto proprio per trovare la relazione giusta. Se state in relazione, Se già state in coppia vuol dire che la relazione è messa sotto i riflettori, qualsiasi problema verrà visto. Se no, se non è visto, che bello, c'è la dichiarazione d'amore, attenzione alla proposta di matrimonio che non è proprio per i gemelli il matrimonio. Quindi, insomma, diciamo che a livello di relazioni però si sta bene con gli altri e soprattutto non vi serve niente, qualsiasi cosa vi mettete siete belli. Ok? È proprio Venere fa questo effetto qua in congiunzione al Sole, rende più belli. Ok? Quindi questo è sempre il momento da rimorchiarvi. Dico un'altra cosa, poi la Venere sta sempre vicino al Sole, quindi non si allontana più di tanto, quindi capite che vicino al compleanno, prima o dopo, è il momento per rimorchiare. Poi ci sono anche altri momenti, però insomma questo è il momento migliore. Che succede? Che mentre sta Venere vi spinge, cioè voi andate in giro, allora praticamente considerate che gemelli in questo momento c'è il Sole in Ariete, tutto bello, quindi vanno in giro, si sentono fighi e socializzano con tutti, un sacco di amici, un sacco di cose. Poi questo Sole passa in Toro, ok? Quindi abbiamo detto che dal 20 di aprile va in Toro e quindi si mette alle spalle dei gemelli. Allora vedremo dei gemelli che dopo tutte queste grandi attività e tutte queste grandi persone, tutta sta roba, hanno un momento in cui hanno bisogno di chiudersi e vedremo che da una parte loro non vorrebbero farsi tanto vedere, cioè un momento prima della nascita, però c'è questa Venere che coloro come mettono piede fuori già c'è qualcuno, dai vieni con noi, facciamo questo, noi no, ma veramente io oggi non volevo fare niente, lo pensano però poi non lo fanno. Quindi vediamo che il momento prima del compleanno è, c'ho le paranoie, sto chiuso dentro casa, non me faccio vedere, non vi preoccupate perché il prossimo mese già lo fate. Quindi da una parte c'è Venere che vi accende mentre vorresti stare un po' chiusi. Lo so che sembra strano, vi dico che i gemelli vogliono stare chiusi, però in realtà gemelli funziona in due parti, quella che chiacchiera sempre e quella che muta, quella che è bella e quella che è un po' meno, ok? Cioè proprio una, abbiamo due personalità, ma abbiamo, lì è proprio chiaro con i gemelli perché è la prima volta che incontriamo il due, braccia e polmoni. Quindi i gemelli veramente o sono logorroici, no? Tu incontri, ti attaccano, no? una filippica infinita, oppure li incontri che sono muti, oppure stanno a casa muti che non vanno a parlare con nessuno. C'è anche questa parte qua, che soprattutto diciamo vediamo nella parte bambino, quindi chi ha dei bambini, diciamo, gemelli, c'è questa parte in cui non riescono a parlare, ok? C'è quella fase là. Quindi ci sarà un momento di silenzio, un momento di riflessione, gemelli. Ma potete rimorchiare, ma a livello lavorativo ci dovete da pensare. Soprattutto perché? Perché siccome vi siete vissuti questi mesi di intensità, questo Marte in gemelli, andavate in giro, mi hanno proposto tutto, avete fatto un sacco di cose, come dicevo, avete talmente detto tanti sì che avete avuto troppe richieste, quindi adesso non è che dovete dire sì a tutto, è il momento di fermarsi un attimo e scegliere le cose migliori per voi. Perché? Perché Saturno ve lo beccate pure voi in quadratura, e un Saturno in quadratura in realtà riguarda proprio e anche l'ascendente gemelli, va bene, questo oroscopo va bene sia per il Sole che per l'ascendente. Per i gemelli è il discorso dell'autonomia e della professione. Diciamo che dal 2012, così almeno siamo sicuri, i gemelli non sanno più che direzione prendere nella loro vita, hanno avuto dei grandissimi cambiamenti e loro non sanno più che faccio nella vita. Già lavorare per loro, anche già pensare di lavorare è un problema, eh? Allora, il gemelli è il puer dello zodiaco, è l'infanzia, è l'adolescenza, i gemelli vorrebbe sempre divertirsi, quindi il consiglio in assoluto è di creare una professione dove ci sia il divertimento e la comunicazione con le altre persone. Quindi in questo momento, siccome sono 10 anni di sbandamento all'incirca, questo Saturno vi aiuta a mettere un attimino luce su quello che voi volete fare. Sì, è una quadratura, però ci rendiamo conto almeno di quello che non va bene e poi magari riuscirete a capire quello che magari vi va bene. Quindi in realtà secondo me questo Saturno metterà un po' d'ordine alla confusione che c'è negli ultimi anni. Quindi diciamo che le energie ci sono, ok? Però attenzione, perché queste energie sono molto orientate verso il possesso. Diciamo che c'è un discorso legato un po' all'economia, quindi ci possono essere state delle spese, dei soldi insomma che non vanno pagato, cioè delle situazioni che non sono andate proprio bene e che adesso bisogna andare a verificare, perché non so dove andare, queste cose sono state un po' una sola, state rifacendo un pochetto l'idea di quello che dovete fare. Il discorso è che non dovete avere fretta, che è una cosa assurda di Gemelli, perché i Gemelli non riescono a stare fermi, invece questo è il momento giusto per riflettere. Quindi pensate alle amicizie, alle relazioni e valutate bene, riflettete sulle proposte che vi fanno, perché poi è dopo il momento in cui capirete dove andare. Non è questo, questo è il momento di rivedere alcune questioni. Quindi un Mercurio, che è il vostro pianeta personale, che non è attivo fino al 5 di giugno, ok? Quindi fino ad allora voi dovete aspettare, cioè non dovete aspettare che uno sta là non fa niente, perché poi Gemelli, abbiamo detto, non è capace, non fa niente, impazzisce, cioè Gemelli da solo parla da solo. Io vi dico che parlo da sola pure con l'amica, ho detto tu sei? Ho detto sì, lo faccio spesso. Comunque lo psicologo ha detto che non è un problema parlare da soli, non è una psicopatia, a volte aiuta, e quindi io parlo ancora di più da sola, motivarsi, ok? Vabbè, però sai, io ho l'uno e il Marte in Gemelli, quindi me ne parlo da sola. Comunque Gemelli, ce la possiamo fare, tanto chiusi, mettete davanti con l'altra parte di voi stessi, riuscirete a capire un sacco di cose. Silenzio stampa, questo è il consiglio che vi posso dare in questo momento. Che segno facciamo? Ariete. Ariete è uscito. Ariete, va bene. Allora, Ariete, segno di fuoco, il segno dell'inizio, è il segno che prende a capocciate tutti quanti. Allora, sostanzialmente l'Ariete ha questo carattere proprio perché è governato da Marte, perché è quel segno che deve cominciare le cose. Ora, Ariete, avete avuto Sole e Giove, anche in questi giorni Sole e Giove, quindi sono capitate delle cose molto belle, è un momento di grande espansione sia a livello lavorativo sia a livello relazionale. La botta di culo, ok, negli ultimi mesi, mega galattica, perché con Giove, poi congiunto al Sole, stanno capitando delle cose che sono veramente fortunate, belle, no? Baciate un attimino dalla fortuna. Ora, questo Giove è proficuo fino al 15 maggio, quindi mi raccomando, proficuo proprio nel senso che aumenta la vostra, fa crescere la vostra personalità, ok? Poi dopodiché rimane sempre favorevole, sta in seconda casa e vi fa arrivare più soldi. Adesso arriva la notorietà, ok? Poi arrivano i soldi. Penso che sei contenta uguale, no? Meglio di così, ok? Insomma, allora, è un bellissimo momento. Il discorso è che in questo momento Marte, che è il pianeta guida dell'Ariete, sta in aspetto di quadratura, quindi vediamo che per quanto ci siano tante cose belle e interessanti, c'è stanchezza. Allora, nella stanchezza dell'Ariete, sai che l'Ariete lui ha fatto così, no? Stanchezza lui. Allora, sta stanchezza nell'Ariete non è mi fermo e mi rilasso e sto sul divano e non esco. Oddio, l'Ariete ce l'ha la parte orso bruno, eh? Cioè proprio se chiude quando non vuole socializzare, anzi è gretto, sembra che te sta un bruttino. Ecco, allora sembra. In realtà, allora il discorso, attenzione, perché se siete stanchi, questa stanchezza si trasforma in nervosismo, quindi c'è nel dente scoperto l'Ariete, attenzione a non provocarmi perché vi rispondono, ok? Quindi semplicemente questo. Comunque il discorso delle relazioni in questo momento è molto interessante, quindi ci possono essere tanti incontri e comunicazioni fra le persone, è un periodo ancora d'oro, poi continuerà la fortuna ma sarete meno operati, perché diciamo che negli ultimi mesi avete fatto talmente tante cose che c'è bisogno di vedere quello che avete fatto, cioè di fare il punto della situazione, pure farvi due conti per capire quello che porta avanti e quello che scartà, perché la fatica, abbiamo detto, è tanta, quindi non occupatevi di quello che non vi piace. Bellissimo momento, molto fortunato, considerando, per chiudere, che l'Ariete quello che deve continuare a fare è portare avanti i progetti che ha avviato negli ultimi tempi, ok? Non ne deve cominciare ancora altri nuovi, deve rimanere la stessa tematica, perché si sta arrivando a una grande conclusione di un ciclo dove nel 2025-2026 vediamo che l'Ariete sarà tra i protagonisti più grandi del cielo, e lì nasce proprio un nuovo ciclo grandissimo, ok? Già siete partiti, già state accumulando, ma diciamo tutto questo processo dura ancora un po' di anni. Che segno facciamo? Scorpione! L'ha sentito! Allora, Ariete è governato da Marte e da Plutone, lo Scorpione è governato da Plutone e da Marte, quindi lo Scorpione è quel segno che comunque, diciamo, quello che deve fare in questa vita è lasciare andare, uno dei segni più passionali dello zodiaco. Perché lasciare andare? Proprio perché c'è questa governati dalla casa ottava, che è la casa sia sessuale, che è proprio quella del lasciare andare. Quindi se la missione proprio di questa vita è: io comunque riesco a sopravvivere anche senza le altre persone, e soprattutto anche le altre persone riescono a sopravvivere senza di me, ok? Questo è importante, eh? No, perché magari potrebbe essere quello che è il serial killer, in realtà ce ne stanno altri peggio, ok? È un segno che invece, allora, perché pure lo Scorpione, no? Quando si innamora e si lega, ci sta bene, è un segno che ci starebbe, come il Capricorno, starebbe sempre in coppia. Ma se si lega lo Scorpione? Scorpione, va bene, il discorso è sapere che potete stare insieme e essere due individui separati, non che dovete diventare la stessa cosa. Per lo Scorpione all'inizio il rapporto è in simbiosi, ok? Io non vivo senza te, tu non vivi senza di me. Allora dopo è così che la storia finisce, perché non può essere sana. Invece nel momento in cui lo Scorpione sta con un'altra persona che fa le sue cose, quella è la relazione che funziona, ognuno ha la sua individualità, ok? Quindi diciamo è un segno molto forte sotto certi punti di vista, mentre la rete de parte de capoccia, lo Scorpione fa finta di niente. Cioè praticamente lo Scorpione è quel segno che lo riconosci dall'occhio magnetico, non è che c'ha una caratteristica particolare, no? Che ne so, il cancro e i pesci sono stempiati, io riconosco, no? Che ne so, il Capricorno c'ha la fascia lunga, cioè ci sono tutta una serie di particolari. Scorpione c'è il culo bello, però, questo sì, culo bello e occhi magnetici, questo è culo a bauletto, è proprio classe, da quello lo riconosco pure da quest'occhio, indipendentemente dal colore, perché può essere nero o può essere celeste, però tu lo vedi perché è praticamente un occhio che ti fa la lastra, cioè secondo me le telecamere l'ha inventata proprio uno Scorpione. Comunque diciamo, perché questa cosa, lo Scorpione ha un segno di grandissima profondità, non si accontenta delle cavolate, sta alla ricerca della verità. Un compito importante in questa vita. Cosa sta succedendo? Ricevute mazzate da tutti i pizzi, da anni, eccetera, eccetera. Siete abituati, da quando nascete voi ci avete mazzato. Perché? Perché dovete imparare questa grande missione, quest'albero che lascia ste foglie cadenti, no? Ok, quindi questa è la simbologia, no? Non possiamo piangere ogni voglia, no? L'avete capito? Penso di sì. Allora, finalmente la situazione sta diventando promettente, quindi... Abbiamo visto che bello, c'è un Marte che vi ha ridato finalmente delle energie, quindi c'è questa verba per fare queste cose, per fare tante cose. Poi abbiamo questo Saturno, quindi volendo lo Scorpione può pure viaggiare, è un discorso sia di viaggi che di studi e di corsi, state facendo magari nuove cose che vi stanno spingendo verso questo lato, quindi è un momento costruttivo. Però c'è Mercurio che sta rompendo le scatole per quanto riguarda la comunicazione. Vediamo che già vi scontrate con alcune situazioni che non vanno bene. Voi, secondo me, avete fatto finta che tutto andasse bene, non va bene. E Mercurio retrogrado ve lo farà capire. Quindi vedrete questa luna nuova vi metterà, diciamo, davanti a questo problema che va semplicemente affrontato e risolto, perché potrà essere risolto. Ci metterete un pochino, attenzione, perché allora o il discorso dei contenziosi, dei sordi con qualcuno, oppure proprio voi avete una visione di una cosa e le altre persone un'altra, e quindi vi andate a scrociare, ok? Quindi c'è, cioè, questo momento di diverso. Io quello che vi posso consigliare, siete tra le persone più intelligenti dello zodiaco, dopo la Vergine e i Gemelli, sa contestavo, eh? Oh. Insomma, diciamo che lo Scorpione comunque ha un Mercurio, diciamo, in esaltazione, quindi c'è una grande intelligenza di non chiudere, allora se gli altri si stanno opponendo a voi, non vi stanno dicendo che voi siete sbagliati perché le vostre idee sono sbagliate, quel progetto che state facendo magari, se adesso incontra degli ostacoli, è perché lo potete modificare meglio, ok? Quindi invece, tanto adesso lo rimandano il compito, eh? Cioè un po' come vedrete che ci saranno delle cose che andranno ritoccate proprio per queste visioni diverse. Non prenderla sul personale, perché non c'entra niente il personale, vuol dire semplicemente che questo progetto voi non avete pensato che magari poteva essere fatto veramente in un altro modo. Non chiudetevi sulle vostre convinzioni perché fate una cavolata, ok? No, sul personale, ah, quello ce l'ha con me e quindi mi sta a rimandare il progetto indietro, tipo lui praticamente, no? Che vedi, adesso impersonifica il Mercurio in opposizione, hai capito tutto, no? È chiaro, si è alzata anche, no. No. Che segno faccio? Allora, aspetta, l'amore in questo momento non va affatto male, perché questo non ve l'ho detto, l'amore non va male, però adesso c'è proprio più un discorso legato ai soldi con altri, quindi i contenziosi magari è un discorso anche dei soldi. Non vi preoccupate, perché comunque dal 7 maggio diciamo è più bello, ma non c'è nessun tipo di problema. Ce l'avete avuto un mese prima, ma il 7 maggio dai, boh. 15 se facciamo le prove, dai, che avevo detto che facevamo? Leone, toro, leone, toro e leone, toro e leone, facciamo il suo toro, perché sennò si spazientisco. No, se non vinta, fallo dopo storo. Lo faccio dopo, allora faccio il leone. No, lo fanno dopo il toro, no. Famo di più, vai a contadino. Ma lui ha detto così perché magari è del leone. Ma fallo aspettare il leone, facci l'ancia. No, facciamo le... Che famo? Toro, dai. Allora voglio dire, vai, facciamo il toro, stiamo facendo, aspettare. Allora, abbiamo questo Mercurio che già sta bello piazzato. Mercurio vi fa parlare tanto, anche troppo, quindi attenzione. Allora, questo sta arrivando, allora la Venere è già passata, quindi hai già rimorchiato, però era quello che non andava bene, abbiamo detto. Fatevi tirate più! Allora, quindi che... Allora, l'amore è nato e alcuni è sfuggito, altri potrebbe ritornare. Bisogna capire se ne vale la pena, sì. Ne parliamo in privato. Comunque, se ha fatto il silenzio, è da scartare subito. Subito. Hai fatto silenzio una volta, sei morto. Morto, morto, non si recupera. Hai capito? È narcisista, quando si apprende il narcisista? Sei troppo empatica! Appunto, perché sei troppo empatica? Che mandava a continuare così? Questo che sta dando prova che sei venuta. Basta! Lo blocchi e gli passi davanti con qualcun altro. E fa giocare con un altro. Appunto, esatto. Non ti preoccupare, un sacco di tecniche io mi sono passata. Allora, il sole sta arrivando. Guarda, pure con un inquilino, pensate che fulgurato. Niente, poi ho dovuto andare nel palato, ancora non ci avevo capito niente. Adesso basta, adesso ho capito che, visto da un bravo psicologo. Allora, toro, sole sta arrivando, qualche giorno e comincia questo nuovo ciclo annuale, quindi mi raccomando, il giorno del compleanno lo devi fare nel modo migliore, no? A casa depressa, ma te devi far fare massaggio, devi bere la coccola, la torta, tutti questi vizi che c'è. Cioè nel giorno del compleanno bisogna fare quello che noi vogliamo fare durante l'anno. Quindi se io sto chiusa a casa e mi bevo da sola a boccia di vino, magari pure scrauso, dopo mi rifletterà un anno. Devi non scrauso, allora se devo stare a casa da sola mi compro un champagne, un vino, cioè ripasso, no? Ok? Però insomma diciamo che il giorno del compleanno è quello che dà il seme, ok? Quindi mi raccomando. Allora, è un momento in cui poter comunicare con le persone giuste. Attenzione, perché questo Mercurio in Toro diventa retrogrado, quindi per tipo può ripassare. Poi ripassate, poi rivenire sotto, soprattutto se te la sei passata con quell'altro amico, non capito? Dai, lascia perdere. Allora, Mercurio ti aiuterà a sistemare queste cose che non sono andate, ok? Quindi non ti preoccupare perché il cadavere prima o poi passa, diventa, tu sei paziente e non c'è nessun tipo di problema. Ora, in questo momento la Venere è in Gemelli, quindi per il Toro, allora, ci sono dei Toro che possono avere la Venere in Gemelli, quindi avremo dei Toro che vogliono avere relazioni libere, ma sostanzialmente un Sole in Toro, considerate che chi c'ha il Sole in Toro cerca la sicurezza, però c'è la Venere in Gemelli che cerca soltanto il divertimento. Allora, vi rendete conto che dentro di noi ci potrebbe essere, no? Questa energia che dico, vabbè, io voglio un rapporto che mi dà sicurezza, però voglio da tutti, no? Capite che, no? Ci sono due parti che tirano. Ok? È così, perché Venere in Gemelli ti piace esplorare, non c'è niente di male. Ognuno ha la sua, che Venere c'ha? Ariete. Ah, fine, va bene. È conquistatrice, quindi sei te che ci hai provato, sei te che ci devi provare. A Venere in Ariete sei te, puttana. Ci devi provare, però che persone giuste, sì. Ok, abbiamo detto, è un periodo fortunato a livello di comunicazione. C'è un momento di più leggerezza, ma bisogna farsi due conti, perché il Toro comunque con la Venere in seconda è sono soddisfatta, magari mi compro qualcosa, ecco, questo è il momento dei i grandi acquisti, perché non sono contenta, c'è una grande energia, però c'è più voglia di uscire, una cosa che non sempre il Toro fa. Toro, io ti ho messo tra i segni più fortunati dell'anno e secondo me sta cominciando questo grande ciclo. Ora c'è un'altra amica Toro che mi dice, ah, non è vero, non vi preoccupate perché adesso ci sarà. Allora c'è stata prima Venere, poi c'è Mercurio, poi arriva il Sole, poi arriva Giove per un anno intero, quindi non vi potete lamentare, il problema siete voi, no scherzo. È un periodo altamente fortunato, dovete avere fiducia e riversare le vostre attenzioni verso quello che vi interessa, perché se sapete che quella persona in determinato modo, di certo non sarete voi a cambiarla, soprattutto perché voi non cambiate per nessuno, perché l'altro lo cambia per voi. Io ho un pensierino su sta cosa, tanto io poi me li ascolto, io non lo so mai quello che dico, che segno faccio? Leone. Bilancia, leone, scusa, leone, leone. Vabbè. Allora, facciamo il leone. Allora, quanti segni mancano? La bilancia? Bilancia. No, la bilancia la facciamo dopo. Allora, leoni, dove siete? Allora, mazza quanti siete? Mazza. Ascendente, va benissimo, anzi, senti ancora di più delle case, perché sei proprio nel momento in cui hai cambiato lavoro, sei nella fase di cambiamento del lavoro, o comunque tu stai arrivando a un apice anche del successo in questo momento, ok? Allora, beh, diciamo che è da tanto tempo che stai cambiando questa cosa lavorativa, però in questo periodo stai arrivando proprio su quel punto di quel cambiamento, quindi o stai cambiando ufficio, o stai cambiando tecnica, o stai cambiando proprio lavoro. C'è questo grandissimo cambiamento e i pianeti si stanno occupando della professione. Ora, il Sole con Giove sono stati belli favorevoli, quindi gli hanno portato tante possibilità in questo momento. È stato un periodo ricco, ok? Però questa, questo Sole in Toro con tanto di Mercurio mette l'accento proprio su quella che è ancora la professione, quindi non è detto per forza che va male il discorso, anzi no, il discorso no, perché sai, scusa, ho dato per scontato che la quadratura di solito è un aspetto disarmonico, però quando invece parliamo di quello che è il raggiungimento di un obiettivo e dell'autonomia. Vediamo che nel mondo lavorativo adesso puoi contrattare e cominciare a chiedere delle cose. L'avrei già chieste queste cose che hai chiesto. Ci potrebbe essere un ritardo di risposte, ok? Quindi devi portare pazienza, perché sono state già fatte tante cose bellissime, ok? Tanti riconoscimenti, tante soddisfazioni, però c'è il momento in cui ci si ferma a livello lavorativo. Per le relazioni invece c'è stato un momento difficile prima e adesso si diventa più leggeri, ma magari il leone era più preso dalle situazioni lavorative piuttosto che dalla coppia, no? E quindi in questo momento, diciamo, invece c'è più leggerezza, guarda pure l'altra persona in questo momento, Leone, oltre a tutte le altre che passano per strada, però quella è curiosità. Che stronza. diciamo che sono finiti tanti problematiche proprio a livello di relazione e di cambiamenti, no? Che ci sono stati, sta arrivando un momento più leggero, soprattutto ci sarà una grandissima estate molto importante. Quindi il discorso è: portate pazienza, perché i risultati e le risposte sia a livello lavorativo che a livello di relazione arriveranno più verso l'inizio dell'estate. Che segno era? Bilancia, amore. Bilancia. Bilancia. Allora, Leone e Bilancia vanno pure d'accordo? È una bella coppia di solito, Leone e Bilancia, perché se... è vero, perché gli piace il lusso a tutte e due, no? Gli piacciono le belle cose, quindi se voi andate a casa di una coppia, Leone e Bilancia, hanno una casa favolosa, fatemi invitare, ecco. Perché gli piacciono le cose belle, no? Un po' pacchiane, c'è una tovaglia super favolosa, c'è le cose dorate. Allora, la Bilancia, governata da Venere come il Toro. Allora, cosa sta succedendo alla Bilancia? Allora, ci sono in questo momento un pochetto di scontri, ok? Allora, c'è poca energia. Allora, alla Bilancia non gli piace mai quando gli pianeti vanno in ariete. Bilancia, voi vi dovete ricordare che la primavera in realtà è sempre un pochino fastidiosa per quanto riguarda proprio questo cambiamento di stagione. Ora, gli ariete, i pianeti in ariete se ne stanno andando, la situazione si volge più a livello economico per quanto riguarda soldi che devono venire dall'esterno, ok? Soldi con gli altri, oppure un momento di grande erotismo, ok? Perché parliamo dell'ottava casa, ci potrebbe essere questa cosa, però è più un discorso dinamiche dei soldi con gli altri. Però voglio dire, c'è questa Venere che è in Gemelli, ok? Quindi per la Bilancia si apre finalmente, la Bilancia ci tiene tantissimo alle relazioni con gli altri, gli piace proprio comunicare, c'ha bisogno, la Bilancia è nata per stare con le altre persone, ok? E diciamo che ci sono stati periodi in cui non è riuscita a relazionarsi bene, invece questa Venere aiuta a ampliare il raggio delle amicizie. Quindi parlare meno, uscire di più, sbattere gli occhietti belli, ok? Perché poi la Bilancia e il Toro, se segni più fascinosi a livello di bellezza, non devono, però non parlo di bellezza quella perfetta, ok? Una bellezza innata, ok? Perché ci sono queste caratteristiche di Venere, si chiama fascino, non è quella bellezza standard, si chiama fascino, cioè avete il fascino, lo dovete utilizzare, ok? Quindi mi raccomando, non accontentate gli altri, scegliete voi chi vi piace e piano piano sbattete i stocchetti, perché sta Venere è altamente favorevole per degli incontri. Ora, ricordiamoci però che c'è questo Marte che rompe un pochino le scatole, e quindi attenzione alla gestione dell'ormone, ok? Però l'ascendente Bilancia, perché l'ormone è impazzito, va magari verso quelle situazioni che non vanno proprio bene. Attenzione sul discorso delle autorità, perché in questo momento, diciamo, c'è un Marte in quadratura che potrebbe portarvi a scontrarvi. Allora, innanzitutto la Bilancia non si vorrebbe mai scontrare con nessuno, però in questo momento ci sono delle figure che sono autoritarie che vi rompono le scatole e potreste andarci contro. Non ci andate contro in modo malefico, non perdete la vostra grazia, non cadete nelle provocazioni, perché diciamo che questo aspetto luna nuova con questa quadratura di Plutone, se ci avete qualcuno che vi rompe le scatole, io eviterei di andarci contro per non attirarvele, ok? Quindi diciamo, mantenete il vostro savoir-faire, sapendo che le energie non sono tante, ma la situazione comunque è promettente, perché piano piano che arriviamo alla primavera, questi pianeti gemelli, diciamo, rinvigoriscono. Comunque è il momento di uscire, socializzare e stare bene con le altre persone. L'altra notizia bella è che questo Giove, che è in opposizione per la bilancia, e soprattutto per l'ascendente bilancio, allora quando Giove in opposizione me la sento calda e non mi rendo conto del lato negativo delle persone o delle situazioni, ok? Questo è il pericolo di un Giove in opposizione, quindi che ne sa, è fare un passo più lungo della gamba. Da maggio fortunatamente questo Giove non è più in opposizione, non ci sono pianeti contrari alla bilancia, di quelli lenti, che è la cosa più importante, ok? Perché quando te va a beccare, diciamo, se te becca un Plutone, un Saturno, un Nettuno, quelli sono problemi. Se te becca un Mercurio, io sono Mercurio retrogrado, devo rompere qualche mese. Però una Venere contraria è un mese in cui non mi si fila nessuno, sei mesi in cui non mi, scusa, sei giorni in cui non mi posso guardare allo specchio perché sono brutta. Ok, proprio qui, però una Venere, a meno che non sta in sosta. Quindi, insomma, liberi, diciamo, da tutti i pianeti lenti. Penso che state proprio una favola, capito? Perché di sottofondo ci saranno quelli alti e bassi, che non è stato altamente promettente, ma soprattutto state, diciamo, leggendo sul sole, piazzati bene, perché non ci sono pianeti che vi stanno massacrando, perché negli ultimi 10-13 anni Plutone vi ha trasformato totalmente. Quindi siete delle persone completamente diverse, ci sono state tutta una serie di problematiche e sicuramente questo Plutone in acquario aiuterà la bilancia ad andare verso il divertimento, la soddisfazione e dei nuovi innamoramenti. Quindi diciamo che c'è carne al fuoco, è molto interessante e piano piano arriva, quindi non perdete la fiducia, perché è l'estate il momento in cui, diciamo, c'è più possibilità, no? Più aperitivi piuttosto che un piatto unico. E quindi che segno facciamo? Acquario! Decisissime! Allora, l'acquario sempre segno carino, perché l'altra volta dicevo, guarda, l'acquario sta bene da leggerezza, niente, c'è stata una diva che praticamente mia figlia non gli ho risposto più, perché per lei l'acquario assolutamente i segni d'aria gli potevano far bene. L'acquario è un segno d'aria, quindi va d'accordo con i segni d'aria, poi ognuno nel tema personale ce l'ha come gli pare, ma l'acquario ci va d'accordo con la bilancia e con i gemelli, sai, ma da, parliamo di secoli e millenni. Comunque sostanzialmente, quindi questa Venere finalmente, siccome, ciao, grazie mille, vai, vai. Allora, praticamente, aspetta, però mi sono persa il filo. Allora, abbiamo questa Venere bella attiva, soprattutto perché venite da un momento in cui invece ci sono state problematiche proprio a livello relazionale, quindi delle chiusure, ognuno stava sul suo punto di vista, non so come, no, ognuno aveva la sua, ci sono state delle piccole ostilità. Allora, pure l'acquario, che sembra tanto libertario e che sembra quello che non si può legare, non si può legare quando è rimasto fregato, perché in realtà l'acquario gli piace, sta in coppia, l'importante è che ognuno si va a fare sua, ma non che vai a fare le relazioni con le altre persone, io esco con gli amici degli altri, non è che deve essere per forza sta amore libero, sto poliamore e sta roba qua, non mi dedicherò mai totalmente a un'altra persona, perché non è la missione dell'acquario, la missione dell'acquario è aprirsi alla società, al collettivo. Quindi se uno va a stare con un acquario, non potete chiudere dentro, tanto ci si chiuderanno loro, cioè loro stanno nella stanza con te, stanno dentro al computer e stanno a pensare ai massimi sistemi, sostanzialmente. Ok? Quindi, insomma, allora acquario, liberatevi dalle vostre prigioni, perché sono le vostre, vi sentite prigionieri e in questo momento ci sono delle situazioni che vi stanno rompendo le scatole, cioè un mercurio che vi ostacola per quanto riguarda la situazione lavorativa, non è detto che le cose stiano scorrendo nel modo giusto, se avete mandato delle cose ci saranno queste che ritorneranno, quindi attenzione, perché proprio a livello lavorativo oppure per quanto riguarda delle situazioni legate alla casa, per alcuni ci possono anche essere dei trasferimenti di casa, sostanzialmente. Però è un Mercurio, diciamo, che vi spinge a riflettere un pochino, non è il caso di spingere l'acceleratore sulle questioni lavorative e pratiche, l'acceleratore lo spingete sulle relazioni. Lei ci ridete un attimo, cioè avete quei problemi? Ecco, lasciate i problemi da parte e godetevi le relazioni. Questo è quello che vi chiedono i pianeti, perché diciamo che vi siete tolti la grande prova di Saturno, però c'è Plutone che gira nell'aria e questo sole Plutone in questi giorni vi romperà le scatole. Ci saranno delle situazioni di potere, attenzione, a livello lavorativo, perché già ci sono delle problematiche di scontro con capi e colleghi che manco dicano, quindi io direi di mantenere è un transito abbastanza veloce, però io vi invito in questi giorni, diciamo, ad stare attenti, perché non scorrono bene le situazioni a livello lavorativo, ok? Un momento in cui rivalutare alcune cose, quindi insomma discussioni eccetera, insomma un momento fino al 5 di giugno in cui bisogna stare attenti a come utilizziamo. Siete quelli che potrebbe mandare, che ne so, tu vai mandare la foto a qualcuno, no? Che magari è personale, e poi la mandate nella chat del gruppo, ecco. E poi succede quello, quindi tagliatevi le mani, perché non è il momento di comunicare, è il momento di riflettere su quello che è successo. Che segno facciamo? Pesci. Allora, poi che è rimasto dopo i pesci? Pesci, Sagittario e basta. Giusto? Ciao, fatto. Allora, pesci. Ho detto il toro? No. Sì. Allora pesci, poi facciamo Sagittario. Allora pesci, che diciamo quel segno che è legato proprio all'immaginazione, come dicevamo all'inizio, diciamo che in questo momento si vive la congiunzione di Saturno nel segno, è una cosa incredibile, perché pesci è quel segno che non puoi afferrare mai, e invece negli ultimi, diciamo in questo ultimo periodo, i pesci hanno deciso di afferrare qualcuno o qualcosa. Quindi vediamo dei pesci che decidono di mettere delle radici con qualcuno o di avviare delle nuove cose. Chiudo un ciclo, ne apro un altro, ok? Anche perché i pesci vanno sia da una parte che dall'altra. Allora, è un periodo comunque incredibile, proprio perché mi fermo da qualche parte e metto ste radici e comincerò a fare delle cose che durano nel tempo, perché ci sarà la passione di fare queste cose. Questo è che è proprio una cosa che nasce da pesci. Allora, in questo Mercurio, questo momento Mercurio e il Sole saranno favorevoli, quindi se state aspettando la firma o proposte dei contratti ci potrebbero essere, attenzione sempre da questo 21 di aprile al 15 maggio in cui alcune cose vengono stoppate, non vi preoccupate perché succederà a tutti quanti, quindi magari vengono riviste certe cose, ma non c'è un grandissimo problema. Comunicazioni, lavoro, per quanto riguarda le relazioni invece, diciamo, allora ci potrebbe essere pesci che decide di stare chiuso a casa perché sta da sola e in questo momento non trova la persona giusta, ok? Ora Marte è a favore, quindi c'è una grande energia, gli ormoni vanno al posto giusto, quindi ci sono dei pesci pure che invece hanno trovato prima la situazione giusta e che in questo periodo magari si chiudono a casa con la persona giusta, ok? E quindi saranno affari loro quello che faranno, insomma, diciamo, preferiranno non uscire, ecco, diciamo, è un pesce che si dedicherà, diciamo, più alla casa per invitare le altre persone, per farla più bella, ok? Non è un transito brutto, però è proprio un voglio occuparmi più delle mie cose piuttosto che uscire. C'è una grandissima energia, quindi è un momento d'oro per i pesci che stanno, diciamo, avviando una nuova vita, è un po' scoprire voi stessi nuovi, quindi è una grandissima trasformazione. Tanto in 3 anni poi ricambierete. Adesso io cambiate prima, però Saturno magari adesso vi aiuta, diciamo, a mettere queste basi. E poi abbiamo il Sagittario. Allora, il Sagittario è il segno quello sportivo per eccellenza, ok? Perché sportivo per eccellenza, perché è il segno che vuole andare oltre. Quindi diciamo, ci sono delle caratteristiche del Sagittario che sono molto belle, perché hanno una grandissima conoscenza. Loro nascono con praticamente già mezza enciclopedia in testa, ok? Sanno un sacco di cose. Uno, diciamo, delle problematiche che potrebbe avere il Sagittario negli ultimi tempi è un pochetto di fanatismo, nel senso che, convinta delle mie visioni, no, sono totalmente convinta della mia visione politica o convinta di quello che io penso, e mi spiace che lo riporta a Dalai Lama, perché tutto ciò che è religioso è Sagittario, Sagittario, il Papa è Sagittario, Dalai Lama, tutto ciò che è la religione, comunque per questo che vi dico che ci può essere un po' di fanatismo. In questo momento tante cose invece possono crollare, c'è un Saturno in quadratura che, diciamo, allora il Sagittario pensa che non esistono i problemi. Quest'anno ci saranno dei problemi che potranno essere sistemati, non è che ci saranno quei problemi che vi castreranno la vita, ci saranno dei problemi che voi non volevate, che vi ritrovate davanti e che dovrete andare a sistemare. Per molti Sagittari questi problemi sono nella casa o nelle persone con cui vi vivete la casa. Diciamo che negli ultimi giorni Sole e Giove vi hanno portato delle bellissime cose, ancora una luna nuova è importante, però Sagittario, diciamo che questo periodo sarà portato uno a sistemare la propria routine, a un discorso pure attenzione alla salute, cioè prendete, è il momento della cura, di prendersi cura di sé, della propria quotidianità, piuttosto che buttarsi addosso agli altri. Ora, diciamo che siccome venite da un Marte in opposizione per lunghi mesi, mostro Marte se n'è andata, l'avete finito di fare la guerra? Ci pensa Venere, c'è una Venere in opposizione, una Venere in opposizione non è niente di male, perché magari c'è sta uno che ti taglia la strada, tu gli vuoi dire che comunque concettualmente e spiritualmente è sbagliato tagliare la strada a una persona perché non la rispetti, e niente, hai rimorchiato la persona di turno. Potrebbe succedere anche questo, quindi attenzione, perché in questo scontrarsi con altre persone potrebbero esserci delle persone altamente interessanti. C'è poca energia o ci potrebbero essere dei scontri. Se qualcuno sa, per esempio, se ci sono dei Sagittari che convivono con altre persone e ci sono questioni di soldi, ecco, ci si potrebbe scontrare un pochino su questo. Anche il Sagittario purtroppo non è uno di quei segni che nel 2023 sarà in auge, perché ci sarà un Saturno in quadratura, però l'estate comunque sarà d'oro e dall'inizio. Mi sembra che ho finito tutti i segni. Grazie.